Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. E dopo il periodo pasquale, bentornati sulle frequenze di Blu Radio Veneto con la trasmissione Fuori di Noi, trasmissione dedicata al mondo degli oratori e al mondo giovanile, in collaborazione con Noi Padova, Noi Treviso, Noi Venezia. Ai microfoni Anna e Cristian. Ciao Anna. Ciao Cristian. Bentornata. Allora, dopo questo periodo appunto di vacanza, cioè, come l'hai passata la Pasqua? Bene? Sì, sì, bene, grazie, con i miei familiari, e soprattutto ci tengo a dire che è la prima Pasqua che passo con la mia nipotina Giulia, che è nata 4 mesi fa e che saluto tanto. Ecco, io mi unisco appunto ai saluti di questa nuova appunto bambina, appunto, che è, appunto, è tua nipote. E salutiamo allora anche tutte le persone, visto, cogliamo l'occasione per salutare tutte le nuove famiglie che hanno avuto appunto, hanno potuto passare la Pasqua con un nuovo figlio, una nuova figlia, quindi famiglie che appunto continuano, diciamo, ad aumentare di numero e appunto ad essere sempre più famiglia nel vero senso, nel senso più pieno del termine. Trasmissione appunto dedicata al mondo di oratorio. Anche questa settimana riprendiamo il contatto con i gruppi, diciamo, ACR che ci vengono a trovare, grazie anche alla regia di Edi Daici e a tutti i nostri collaboratori. Protagonisti di questa puntata saranno i ragazzi dell'ACR di Fiera di Treviso, lo diciamo fin d'ora, poi li sentiremo, li ascolteremo. I brani musicali che inseriremo in questa puntata sono proprio scelti da questi appunto nostri ragazzi. E puntata un po' speciale perché appunto noi andiamo in onda di sabato alle ore 14 e domenica alle 12:30. Settimana speciale perché la domenica, appunto, in questo momento, appunto, mentre stiamo andando in onda, c'è un evento molto importante, perché 580 delegati delle 15 diocesi del nord-est sono a convegno, appunto, in questo momento ad Aquileia. Convegno molto importante che da lunghi mesi, da anni, appunto, si sta preparando, quindi evento ecclesiale di rilievo. E nel nostro piccolo qui a Treviso noi stiamo festeggiando invece la festa degli oratori, domenica 15 aprile, nell'oratorio San Giorgio di Quinto. Ci ritroveremo come associazione Noi Treviso per festeggiare i 10 anni di vita, quindi anche questa è un'occasione per ritrovarsi, per divertirsi, per riflettere, per stare insieme fondamentalmente. Ci sono giochi, c'è il momento appunto della preghiera, ci sono dei laboratori dedicati al settore adulti e a quello dei bambini, in cui appunto lanceremo anche dei messaggi legati sempre all'ambiente oratoriale. Cercheremo insomma di fare famiglia, di fare festa e di condividere questa passione comune per gli oratori. E per quanto riguarda l'Azione Cattolica, c'è qualche evento in programma, l'abbiamo già annunciato ai nostri ragazzi che sono venuti qui in studio a registrare, li abbiamo ricordato, ma loro lo sanno. C'è un grande appuntamento un po' distante nel tempo, ma mica tanto. Sì, allora il 13 maggio c'è il convegno diocesano della CR, quindi tra poco più di un mesetto, ecco, che vedrà protagoniste appunto tutte le parrocchie della nostra diocesi di Treviso, quindi speriamo, ecco, intanto nel sole prima di tutto e poi in una partecipazione numerosa. Dove si svolgerà? Al Parco Suali Dorate di Treviso, sì. C'è un tema particolare che dà il là a questo convegno? Beh, si rifà comunque al tema dell'anno, quindi punta in alto, e appunto quindi a partire poi dal brano del Vangelo scelto di quest'anno si faranno varie attività, soprattutto saranno attività sotto forma di giochi, ecco, la mattina, quindi saranno un po' più, diciamo, profonde, ecco, e poi il pomeriggio sarà invece prettamente più divertente, ecco, più giocoso, quindi tutti insieme, tutte le parrocchie sono chiamate a inventare dei giochi che di solito sono sempre veramente super galattici, quindi insomma ci sarà da divertirsi. Aspettiamo questo convegno anche perché abbiamo visto che l'appuntamento annuale è molto atteso da tutti i bambini, e con questi giochi super galattici, Anna, io verrò a vedere, perché a me piace anche un po' di fantascienza. Voi dell'ACR, voi educatori, voi responsabili, sapete sempre trovare i giochi giusti e anche dal punto di vista anche scenografici molto, molto attraenti. Quindi speriamo appunto che sia una bella giornata e che ci sia soprattutto una bellissima e numerosissima partecipazione. Ma noi allora, dopo aver salutato, dopo aver un po' introdotto questa puntata di Fuori di Noi dedicata sempre agli oratori noi e al mondo giovanile, noi andiamo con il primo brano musicale scelto appunto dai ragazzi dell'ACR, del gruppo ACR di Fiera di Treviso, protagonisti di questa settimana, che hanno scelto per noi appunto la canzone di Jennifer Lopez, Papi. amici di Fiera di Treviso, i ragazzi della CR hanno scelto una canzone veramente energica, simpatica, vivace, energica, no? Di solito queste canzoni le ascoltiamo sempre quando facciamo CR o quando appunto siamo in oratorio. Beh, d'altronde sono le canzoni appunto che vanno di moda adesso, quindi sono le hit, no? E quindi fanno da colonna sonora, da sottofondo musicale a tutte le attività CR o noi appunto che si fanno nelle rispettive parrocchie. Noi abbiamo come al solito un ospite al telefono, e come sempre noi parliamo appunto degli oratori, noi parliamo del mondo giovanile, ma questa volta praticamente facciamo qualcosa di particolare, Anna, perché una radio intervista un'altra radio. È possibile? Sì, certo, la radio appunto dietro il microfono come noi ci sono altre persone che hanno una certa passione, hanno una certa voglia appunto di comunicare e utilizzano proprio lo strumento della radio, una radio che è nata in un oratorio, ma adesso basta appunto questa introduzione, vediamo se è in linea uno dei DJ, uno delle voci di questa radio. Emanuele, ci sei? Certo, sono qui, buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Emanuele. Ciao Emanuele. Ecco, ciao. Sono insieme con la mia co-conduttrice che è la Anna Zampieri, responsabile della CR di Treviso, con la quale appunto conduciamo Fuori di Noi, trasmissione dedicata al mondo degli oratori. Emanuele, sei uno dei protagonisti del tuo oratorio, anche perché voi appunto avete realizzato un progetto che sta andando in onda, proprio nel vero senso della parola, anche in queste settimane, in questi mesi. Parlaci un pochettino, innanzitutto, cosa fai di bello, come è nato diciamo un po' questo progetto e da dove appunto parte questa radio? Mi stai affidando una responsabilità grandissima. Allora, provaci. Il nostro progetto è nato 2 anni fa e poi naturalmente, come sai, il tempo è danaro e noi l'abbiamo sprecato in alcuni casi, ma comunque nato 2 anni fa da un progetto in collaborazione tra noi, quindi il noi di Istrana, di tutte le varie parrocchie di Istrana, con l'AVIS, Associazione Donatori di Sangue. Siamo partiti qualche anno fa, era un progetto dedicato ai giovani dai 16 ai 26 anni. Sì. E siamo partiti, noi avevamo questa vaga idea, nata da una passione per creare una radio. E l'idea era talmente forte che siamo partiti forse sopra le nostre aspettative. Abbiamo creato 2 anni fa una web radio, una web radio chiamata Radio Dreamland, la quale però richiedeva impegni, un grande impegno per tutti noi. Dopo un anno purtroppo i fondi sono mancati, di conseguenza abbiamo un po', come si suol dire, abbassato la cresta, iniziando da quella che è un po' il fondo per partire. Naturalmente per emergere si parte dal basso e di conseguenza abbiamo cambiato nome, ci chiamiamo Radio X. Radio X perché noi siamo X, siamo nessuno. Trasmettiamo attraverso YouTube e tra poco sarà in onda anche il nostro, o in onda o meglio nel web, anche il nostro sito internet. Ho capito, Emanuele. E nella conduzione vi ispirate diciamo a qualche programma, ecco? Guarda, io sono un appassionatissimo di radio DJ e quindi un po' l'impronta no, nel senso che noi non vogliamo avere un'impronta assieme alle altre radio, noi siamo una radio particolare, siamo una radio che non fa radio ma che fa delle rubriche su vari argomenti. Per dirti che avvistiamo Gabriele Marchesin dei Season Acoustic Project, un ragazzo che si sta un po' facendo notare nel Veneto come canzoni, lui si ispira agli Alter Bridge. Vaghiamo, abbiamo una piccola rubrica chiamata veramente molto... Simpaticamente, esatto, Tony e Frankie Shaw, che questi sono praticamente 2 anziani signori, in realtà interpretati da Thomas Fuser e Federico Gasparini, i miei 2 soci. Sì. E loro interpretano questi anziani, quindi parlano in dialetto veneto e raccontano un po' gli argomenti in questione. L'argomento della settimana scorsa era la siccità. Sì. Per dirti, e quindi viaggiano un po' su questi argomenti, ripeto, magari con detti popolari, magari con qualche barzelletto di sottofondo, molto molto divertente, devo dire. Quindi siete anche un contenitore linguistico culturale, cioè recuperate le antiche diciamo tradizioni, esatto, i proverbi, i detti di una volta. Sì, sostanzialmente seguiamo 2 linee, la linea con la quale cerchiamo di coinvolgere il più possibile i giovani, quindi simpatica, quindi attraverso magari scherzi telefonici, attraverso un qualcosa che faccia comunque ridere, qualcosa di comico. E quindi questa linea viene seguita più che altro da Thomas Fugger e Federico Gasparini. L'altra linea, quella diciamo un po' più socio-culturale, anche se devo dire più socio che culturale, è quella che seguo io, dove appunto intervisto i giovani ragazzi che si stanno un po' facendo notare del nostro territorio, quindi Istrana e paesi limitrofi. Tratto qualche argomento magari un po' più delicato, quindi sul quale non ci si può scherzare più di tanto. Ho capito. E diciamo, com'è organizzata? Non so, ma avete una scaletta, ecco, la trasmissione, sì, quanto dura, ecco. Ti dico, noi non abbiamo un clock vero e proprio, il cosiddetto palinsesto. Noi abbiamo delle rubriche settimanali. Cerchiamo sempre di fare una rubrica, come ho appunto detto, fatta da me, quindi un po' più socioculturale, e una rubrica comica. Vengono inserite dal nostro regista Leonardo Berlese, vengono inserite nel social network, quindi parliamo di Facebook, parliamo di Twitter, tramite YouTube. Emanuele, una cosa, ma allora, secondo te, secondo appunto la vostra storia, il passaggio da Dreamland a Radio X è stata una evoluzione, adesso a conti fatti, o una involuzione? Allora, sai, vista solo l'aspetto negativo, potrebbe essere un'involuzione, anche se noi la vediamo come una evoluzione, perché è un modo di fare radio che nessuno ancora usa. È un modo di fare radio attraverso il social network. È un po', Emanuele, è un po' come fa adesso Fiorello con l'iPhone, va nell'edicola e sfoglia praticamente i giornali con l'edicolante o le persone appunto di turno là vicino al bar che stanno bevendo un caffè e poi le manda su Twitter o su qualche social network. Sta facendo una televisione, ma una televisione con i mezzi praticamente poveri, tra virgolette, no? Esatto, noi praticamente usiamo mezzi poveri per diffondere magari valori ricchi, ecco, per darti bene, questa è una frase che ci ricorderemo per darti queste cose qui. Poi, per dirti, è una cosa bella il fatto di coinvolgere i giovani, e quello che io voglio dire, lancio anche un appello, siamo in pochi, siamo in quattro, per fare una radio bisognerebbe essere molti molti di più, quindi lancio un messaggio a tutti i giovani che magari ascoltano questo programma: veniteci a trovare se avete voglia, se avete questa voglia di stare insieme per fare radio sotto anche alcuni valori che sono importanti, e noi vi aspettiamo. Mandateci una mail a segreteria.radiox@gmail.com. siamo qui apposta per far radio e per divertirci tutti insieme. Benissimo, ma dove devono venire allora, Emanuele? Dimmi il posto. Allora, noi la sede ce l'abbiamo all'interno dell'oratorio di Sala di Istrana, ci hanno regalato una saletta, la quale noi l'abbiamo sistemata e adibita a radio, quindi abbiamo creato la parte regia divisa da un vetro con la parte di registrazione, quindi con lo studio vero e proprio. Noi siamo lì, siamo quindi a Sala di Strana. Ora, dirti la via su dei piedi non la ricordo. No, va bene, va bene. All'oratorio di Sala di Strana. Ma se io voglio vedere, per esempio, qualche vostro programma, perché l'ho visto ovviamente su YouTube, e devo dire la verità che voi anche curate molto, diciamo, la grafica, il regista appunto che monta i pezzi, è molto bravo, è molto frizzante, è molto simpatico. E uno dei meriti forse è anche il fatto che la trasmissione dura, mi pare, 15 minuti, no, circa, ed è molto curata anche nei passaggi e appunto, e anche nella grafica. Ma se uno vuole andare appunto a vedere oggi, per esempio, va a cliccare su YouTube, cosa deve inserire per vedere una delle vostre puntate esattamente? Allora, il modo più veloce per trovare i nostri video su YouTube è semplicemente inserendo i nomi dei DJ. Scrivete Emanuele, Thomas, Federico e vi vengono fuori tutte le nostre puntate, che poi sono intitolate Radio X puntata con il suo nome. Il modo più veloce è quello di scrivere i nomi dei vari DJ. E sarà online anche il nostro sito internet, che sarà www.radiox.altervista.org. Ok, quindi anche un sito online legato alla trasmissione. Anche un sito online. Se mi permetti, vorrei fare un po' di pubblicità all'altro progetto che è nato assieme a noi. Il progetto, quindi nato tramite Avis e noi, ha partorito così una radio, la nostra radio, e un altro gruppo, un gruppo chiamato Distart, che si occupa di arte. Presso Caccelsi di Istrana sarà esposta una mostra d'arte fatta da tutti i giovani, dove quindi abbiamo fotografie, abbiamo disegni, abbiamo arte come sculture. Questo gruppo Distart mette in mostra quelli che sono i giovani talenti della nostra cittadina, quindi parliamo soprattutto di Treviso, parliamo di Istrana, parliamo di Castelfranco Veneto. sarà eletto un vincitore, il quale avrà un premio. Vorrei fare appunto questa pubblicità perché bene, più siamo, più abbiamo la possibilità di votare per eleggere appunto il vincitore. Benissimo, allora Emanuele ti ringraziamo tanto per il tuo intervento, ti auguriamo ogni bene appunto per questo progetto appunto radiofonico che state diciamo organizzando e state portando avanti, e ci risentiamo e ci rivedremo anche alla festa appunto di Quinto di Treviso domenica appunto 15 aprile. Ti ringraziamo tanto e allora buon lavoro e buona Radio fortuna. X. Grazie, grazie a voi, buon lavoro, è stato un piacere essere qui con voi. Ciao Emanuele, grazie ancora. Grazie a tutti, ciao. Benissimo, allora Anna, dopo aver ascoltato appunto il nostro ospite, aver intervistato il nostro ospite di questa settimana, mandiamo appunto la seconda canzone, sempre scelta dal gruppo ACR che sentiremo tra poco di Fiera di Treviso. L'hanno scelta una canzone un po' particolare, l'hanno rifatta, è una canzone vecchia, ma rifatta da due artisti di livello mondiale, Lady Gaga e Tony Bennett, Ladies a Trump. For dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She does it like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in diamonds and pearls. Rest of those girls. That's why the lady is a tramp. I love the free, fresh wind in my hair. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damp. That's why the lady is a tramp. Go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Cheetah's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's why the lady is a tramp. I love a prize fight. That isn't a fake. No fake. I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green grass under her shoes. What can I lose? 'Cause I got no dough. Oh, no. Why the lady is a tramp. Go! So, hates California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. Right on. Ebbene, siamo tornati allora dopo la canzone di Papi con Jennifer Lopez, abbiamo ascoltato un brano appunto rieditato da due grandi protagonisti della scena musicale mondiale. Anna, adesso è il momento appunto di sentire i veri protagonisti di questa puntata, dopo aver sentito Emanuele appunto con Radio X, appunto questo progetto che sta portando avanti, e adesso cioè, è il momento del... In oratorio, si vola alto! Rubrica appunto che porta il titolo, lo slogan di quest'anno per quanto riguarda l'Azione Cattolica. Anna, i ragazzi della CR, del gruppo CR, sono venuti qui in studio, hanno raccolto e hanno preparato per noi un contributo speciale raccontando da dove vengono e soprattutto cosa fanno di bello all'interno del gruppo ACR. Ciao a tutti, noi siamo della parrocchia di Fiera e adesso ci presentiamo. Salve, io sono Giorgio. Ciao mamma. Io sono Francesco. Io sono Sara. Io sono Eleonora. Io sono Maria Cristina. Rima. Ria. Io sono Giovanni. Io sono Alessandro. Nome del paese. Fiera. Nome della parrocchia. Sant'Ambrogio Vescovo. Comune. Treviso. Numero abitanti. 6.250. Numero delle famiglie. 700. Nome del parroco. Don Angelo Visentin. Età del parroco. 49 anni. Data di nascita del parroco. 31 maggio. Tre gruppi in parrocchia. ACR, Scout, Noi. ACR, quando? Domenica mattina dopo messa. ACR, a che ora? Dalle 11 alle 12.30. ACR, quanti siamo? In 12. I tuoi educatori? Alice, Martina, Alberto, Federico, Alessia e gli aiuto educatori. Olimpia e Alberto. Nell'ultimo incontro abbiamo parlato di... Guardarsi dentro, discernimento, capire qual è il bene e il male. ACR, a me mi piace, perché? L'ACR ci piace perché qui possiamo scoprire molte cose sulla vita delle persone vissute durante l'epoca di Gesù e possiamo anche conoscerci meglio e, come abbiamo detto prima, capire qual è il bene e il male, quindi anche divertirci. Attività principali durante l'anno. Festa del Ciao, della Pace e gemellaggi e convegni. Numero degli aderenti alla CR? Circa 80. Bene, allora davvero bravi e complimenti a questi ragazzi e soprattutto un grazie a loro appunto che hanno partecipato e anche un grazie agli educatori che hanno creduto in questo progetto e ci sostengono, ecco. E adesso insomma sentiamo anche l'altro contributo che hanno preparato, cioè sulla un'attività speciale che hanno fatto in parrocchia. Io sono Francesco e ora dirò un po' quello che faremo, che facciamo quando ci incontriamo per fare la CR. Allora, noi di solito ogni volta partiamo da un argomento che i nostri educatori decidono. L'ultima volta abbiamo parlato appunto di, come ha detto Eleonora, di guardarsi dentro e appunto capire anche i modi migliori di farsi amici, di comportarsi bene. Ecco, poi di solito quando abbiamo finito questa attività giochiamo e ci divertiamo. Ciao a tutti da Fiera! Viva Fiera! Viva Fiera! E viva Fiera, quindi ciao ragazzi della CR, grazie educatori della CR di Fiera di Treviso, protagonisti di questa puntata, ma ne avremo altri anche nelle prossime settimane. Quindi noi stiamo concludendo appunto questa puntata, vi auguriamo ogni bene. Anna, ci risentiamo la prossima settimana, sempre al sabato alle ore 14, domenica alle ore 12.30, sempre sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Salutiamo la regia, appunto, il regista Eddie Dai, e lo ringraziamo tanto della pazienza che porta verso di noi e che ci segue però anche con tanta simpatia e con tanta amicizia. Salutiamo appunto tutti voi radioascoltatori, continuate appunto ad ascoltare Blu Radio Veneto con le prossime appunto puntate, prossimi programmi che appunto seguiranno a questa trasmissione. Ciao a tutti, alla prossima settimana. Ciao ciao. Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto.